Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il matrimonio, ma non è sicuro, 18 anni sei arrivato, bisogna festeggiare. Il passaggio tra la minore età e la maggiore età. Puoi essere al centro dell'attenzione in cui è un giorno che non ti dimentichi mai, è come se fosse un matrimonio. Sono la party planner, propongo idee, propongo le location, propongo il DJ, il fotografo, una serie di gadget. Una volta decisa la location per le ragazze scatta la corsa all'abito, ovviamente da principessa. In passato le debuttanti si vestivano di bianco, oggi la moda preferisce tanto colore. Abiti sartoriali, ma sono molte le proposte su internet per tutte le tasche. È fatale, come ho detto nell'introduzione, che in un momento in cui ci si facciano i conti in tasca, in cui il superfluo viene tagliato, in cui sembra che una moderazione familiare sia la legge che debba valere per tutti, si è improvvisamente esplosa la tendenza del festeggiamento di 18 anni. Probabilmente c'è una ragione profonda, probabilmente in questo momento abbiamo a cuore il segnare in maniera fatale, in maniera rituale, come avveniva nelle antiche civiltà, il passaggio all'età adulta. Forse non possiamo permetterci dei ragazzi che rimangano ragazzi per i primi 30 anni della loro vita. Forse è necessario che sia inventato un sostituto del salto dalla catasta di legname con la corda legata alla caviglia, delle notti passate nella foresta, del primo animale ucciso a mani nude. Tutto quello che segnava il passaggio dal mondo dell'infanzia al mondo degli adulti nelle civiltà passate. Non so cosa equivalga esattamente per il genere femminile, ma anche le donne avevano la loro iniziazione, entravano appunto nel sacro circolo delle fattrici o delle amanti o di coloro che comunque non erano più bambine. Beh, nella nostra società sembrava che fosse dimenticato questo passaggio. Un 17enne equivaleva a un 27enne e forse anche a un 37enne, vestiva gli stessi abiti, aveva le stesse abitudini, frequentava le stesse persone, dormiva nella maggior parte dei casi nello stesso candido lettuccio che ogni sera la mamma gli rimboccava le coperte. Beh, invece è cambiato qualcosa di radicale. Ce ne siamo accorti osservando su YouTube quelle che è negli ultimi tempi venuto alla luce come un fenomeno di costume molto legato in realtà all'idea del trash, cioè dell'emulazione fallita di un modello alto, ragazzi e ragazze che si fanno confezionare in occasione della grande festa di 18 anni il video del prediciottesimo. Provate a digitare in rete su YouTube prediciottesimo e vedrete una fantastica sequenza di videoclip in cui ragazzi e ragazze impersonano quelli che sono i miti della loro generazione. Le ragazze, naturalmente, al di là della loro forma fisica, non è importante, anzi è auspicabile, finalmente usciamo dallo spettro dell'anoressia, opime ragazze boteriane che saltellano su tacchi 14, che si atteggiano a modelle, che si mostrano scosciate, discinte o vestite con l'abituccio della festa delle mamme quando vanno ai matrimoni, ragazze che si rotolano a torso nudo sulla neve e che mostrano i muscoli derivati da anni di palestra, che hanno come punto di arrivo ideale quel fantastico mondo fantatelevisivo dei tronisti, di uomini e donne, in cui il corteggiamento è basato sulla possibilità di rappresentare alcuni stereotipi. E voi come la vedete? Come avete passato i vostri 18 anni? Se appartenete alla mia generazione, siamo quelli che a 18 anni al massimo si prendeva l'orologino, che era il segno del passaggio dalla minore età all'età adulta. Chi non aveva avuto lo squallido orologio alla prima comunione aveva l'orologio un po' più serio di 18 anni e poi basta, un calcio nel culo, non ci si pensava più. Ma quando mai i 18 anni sono stati una festa? Forse oggi perché nessuno sposa più figli e quindi fanno le feste di 18 anni. Vi siete trovati di fronte all'enigma di dover cominciare ad accantonare del budget familiare qualcosa per i 18 anni del ragazzo? Beh, io purtroppo mi trovo in una situazione molto simile. Fra un paio di mesi il figlio maggiore compirà 18 anni e cominciano a tremarmi le vene dei polsi. Cosa dovrò fare? Dovrò organizzare una grande festa in un locale, dovrò invitare amichetti e amichette e dovrò organizzare un pulmino per portarli a casa perché saranno ubriachi fratici e qualcuno probabilmente anche strafatto alla mattina dopo. Dovrò regalare a mio figlio qualche fanta regalo, ma può cominciare a camminare tranquillo che non ci sarà questo, però dovrò fare qualcosa e soprattutto dovrò fare il fantastico video che si usa alle nostre latitudini in cui mostro tutto l'evolversi di mio figlio, dalla culla alla fanciullezza, ai primi passi, alle scuole elementari, alle vacanze. Una cosa tristissima, uno squallore. Se me l'avessero detto a me a 18 anni sarei fuggito di casa per sempre, mi sarei arruolato nella legione straniera. 800240024. Qual è il vostro progetto per i 18 anni dei vostri figli? Avete mai assistito, o i vostri figli hanno mai assistito, a quelle che sono le fantafeste dei 18 anni? Ignazio Mormino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto una lunga introduzione perché questa mattina vorrei chiamare a raccolta il pubblico della radio e capire se veramente ci ho visto giusto nella mutazione che c'è stata nel nostro costume, anche abbastanza recente, di dare un senso importante ai 18 anni. Lei in quale area opera come fotografo cerimoniale e organizzatore di eventi? Beh, io ho uno studio fotografico, quindi praticamente mi occupo di tutto quello che ruota intorno al mondo della fotografia. Quindi lei soprattutto faceva foto di matrimoni, immagino, e tradizionali cerimonie, battesimi, sì, cresime, nozze d'oro, nozze d'argento e via dicendo. Esatto, esatto, perché qua si deve fare un po' tutto. Lei in quale città opera esattamente? Catania. Catania, però ho visto che è il fulcro, il centro storico, il punctum del prediciottesimo. Si è aperta una nuova, diciamo, interessante ramo d'azienda per voi fotografi nell'organizzare i prediciottesimi. Mi spiega esattamente in cosa consiste? Beh, sostanzialmente quello di cui avete appena parlato. I ragazzi, soprattutto le ragazze, quando si avvicina a questo fatidico giorno, hanno questo desiderio inarrestabile di voler apparire a tutti i costi e quindi hanno trovato questo modo per potersi mettere in mostra. Ecco, da quanto esiste, diciamo, la produzione del videoclip del prediciottesimo? Più o meno da quanti anni se ne parla? Perché io non ho sentito parlare in questi ultimi mesi. Sì, in questo ultimo periodo sta saltando fuori anche a livello nazionale questa cosa. Ho notato che non siete gli unici che ne state parlando. Qui da noi questa cosa già da un paio d'anni, forse anche un qualcosa in più, si usa fare. Ma io ho visto che ci sono varie, diciamo, fattispecie da considerare. Allora, la location, sono sempre bei posti, ruscelli in cui la ragazza sguazza con le scarpe tutto, belle ville importanti, oppure dei ruderi, oppure luoghi boschivi, foreste e via dicendo. Poi l'abito, il dress code è importantissimo, non esserci sempre... fa vari cambi di abito nel corso del video. Quanto dura il videoclip innanzitutto, più o meno? Ma il videoclip almeno 10 minuti. 10 minuti. Con un diciamo di una ventina. Almeno 4-5 cambi di scena. Sì, certamente, anche di location. Quindi per girarlo richiede cambia pettinatura, cambia abito, cambia scarpe, cambia tutto. Esatto, perché oltretutto non si fa solo in una giornata, si prevedono varie location e quindi riprese fatte in vari giorni. Quindi richiede già una produzione, come diciamo mettere in produzione un film, uno spot pubblicitario? Sostanzialmente sì. Allora, perché gli abiti chi li fornisce? Li fornite voi o si porta tutto la ragazza? Gli abiti li porta la ragazza, chiaramente. Noi ci occupiamo semplicemente di cercare di assecondarla, nel senso che lei propone le idee, noi cerchiamo di aggiustare un po' il tiro, magari se sono cose un po' troppo strane. Io vedo che tendono un po' a esagerare, cioè vedo ragazze, Dio le benedica, che viaggiano sugli 80 kg, che fanno videoclip in mutande e tacchi a spillo, che salgono e scendono scale, che sono anche simpatiche, ma si rendono conto molte volte di sfiorare un po' il ridicolo, secondo lei? Non so fino a che punto, perché chiaramente la voglia di apparire, come dicevo poco fa, è talmente forte che non si rendono conto. Poi chi viene? L'acconciatrice, la parrucchiera dietro, diciamo. Sì, ovviamente. Che gli fa i capelli per ogni location, rifanno un taglio di capelli, un'acconciatura. Ma magari il, ta- tagliano l'acconciatura. L'acconciatura, il trucco, sì. Il trucco sì però. Il trucco assolutamente, quello deve essere curato anche in fase di ripresa durante le stesse riprese, se il trucco si sbava deve esserci il truccatore pronto. Senta, poi c'è un regista che studia diciamo un canovaccio. Ma i registi sostanzialmente siamo un po' tutti, perché io sostanzialmente faccio le foto, poi c'è il mio collaboratore che si occupa di fare con quante video. Camere girate? Videocamere ne basta una. Ma basta una, si prende un piano sequenza. Sì, sì, poi in fase di montaggio si fa il tutto. Io ho visto anche delle cose molto interessanti, che ne so, va molto la fanciulla distesa sulle rotaie del treno, perché c'è questo, questa costante? Ma perché si cerca di ricreare probabilmente le cose viste in TV, viste sulle riviste. E quali sono i loro modelli? I loro modelli quali sono? I videoclip delle musiche più importanti, delle canzoni più note, Maria De Filippi, qual è la cosa? Beh, è chiaro, i giovani di oggi guardano tantissima TV, sono plagiati, direi. Quindi loro hanno già un modello in testa. Sicuramente, loro ce lo propongono e noi vediamo di accontentarli nei limiti del possibile. Sono presenti i genitori, le mamme, le zie? Sì, no, i genitori devono essere presenti. Già, perché sono minorenni ancora, vero? Minore, cioè, esatto, devono essere presenti e in ogni momento delle riprese. Senti, invece i maschi, io ho parlato dei ragazzi, i ragazzi maschi hanno, diciamo, come traccia fissa togliersi la camicia dopo i primi 5 secondi. E devono far vedere il video, il fisico palestrato. Poi, poi dove li portate? Sull'Etna? Dov'è che trovate la neve? La neve sull'Etna, certo. Sull'Etna, per quello avevo capito che era tutti di zona Catania, perché la neve in Sicilia è un po' difficile trovarla. Quindi diciamo una parte, una sequenza è girata sull'Etna, con rotolamento sulla neve a torso nudo. Beh, poi dipende anche dal periodo dell'anno. Chiaramente se il compleanno è in inverno e la ragazza vuole le foto al mare, bisogna girarlo prima. Ci si pensa prima. Ci si pensa prima, si pensa per un prediciottesimo si può anche programmare una serie di riprese che si snodono durante l'arco di tutto l'anno. Ecco, in linea di massa, quanto viene a costare alla famiglia un prediciottesimo? Così diamo anche un'idea. Completo di video si va dai 600-700 euro in su. Fino anche a un paio di 1000 euro, perché si è fatto con tutti i crismi. Beh, insomma, a 2000 euro ci si può anche arrivare, dipende da quello che chiedono, però... Se la truppa deve muoversi come una settimana? Come media massima siamo sui 1200. 1200. Dunque, poi una volta fatto, come funziona? Io li vedo su YouTube, ma YouTube, diciamo, è l'ultima destinazione. C'è una mega proiezione la notte della festa, immagino. Ovviamente, la notte della festa nel locale c'è generalmente i compagnetti di classe portano il loro videoclip fatto con tutte le foto scaricate da Facebook. E quindi ti fanno la cronologia degli eventi di quando era piccolo, di quando... E questo succede anche a Roma, solo che a Roma non c'è poi il filmato, quello clou. E poi, certo, il prodotto fatto da noi viene proiettato. Allora, fermiamoci un attimo, sentiamo qualche ascoltatore. 800240024. Vi abbiamo dato l'aspetto più singolare e forse più legato a una contemporanea smania di esistere al di là della propria personale, individuale connotazione spazio-temporale e sociale anagrafica. Vediamo cosa accade nel resto d'Italia. Enza, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo raccontargli che io ho festeggiato il 18 di mia figlia ed è stata una bellissima esperienza. Quanto tempo fa è successo? A ottobre dell'anno scorso. Dove? Così vediamo di capire come è accaduto questo festeggiamento. Allora, premetto che io ho vissuto in Argentina per tanti anni e lì c'è questa abitudine di fare i 15 anni. Ah sì. La famosa festa però qui in Italia non si usa, era un'idea molto bella. Poi le vestite da principessa, una cosa lussuosissima, 15 anni. Sì, là si esagera un attimino, si va oltre le possibilità economiche delle famiglie. Sì, ho visto dei cataloghi, abiti proprio da se sembra il guardaroba di Barbie, qualcosa del genere. Sì, sì, è roba da spose. Con le coroncine in testa. Come si chiama la festa? Quinzaniera. Ah, la quinzaniera, ecco, la quinzaniera. Sì, sì. Invece per me era importante che mia figlia prendesse atto dell'importanza di essere maggiorenne. E quindi cosa ha fatto? Quindi firma del... entrare nel mondo degli adulti. E cosa le ha fatto allora? Abbiamo fatto una festa a Chiavenna Landi, qui in provincia di Piacenza, un bellissimo posto dove c'è un castello con il suo ristorante, con gli amici e gli zii più cari. Ma vi siete affidati a un'agenzia? Avete fatto tutto in casa? No, abbiamo fatto tutto noi. Non c'è stato questo video pre-18 anni né cose... Una tranquilla, tradizionale festa di 18 anni. Esatto, dove la famiglia, i ragazzi abbiamo ballato insieme fino a tardi, abbiamo mangiato bene. Diciamo, quanto le è costata questa diciamo, passaggio età adulta? A grandi linee avrò speso sui 1.800. Vabbè, 1.800. Ha fatto anche un regalo a sua figlia? No, sta facendo anche la patente, cioè voglio dire... Ah, niente, la festa si è accontentata. Bene, Pasquale. Oh, buongiorno, dottor Nicoletti. Complimenti per la trasmissione. Andiamo al punto. Sì, allora io praticamente ho un nipote che ha compiuto 18 anni da poco, quindi ho fatto una mega festa sfarzosa. Al contrario, io che ho 34 anni ho fatto un 18esimo di compleanno molto semplice e ho notato le differenze. Vabbè, quelli erano i felici anni in cui c'erano i soldi, quindi mica li spendevamo in queste stupidaggini. Li spendevamo meglio. Forse lei ha ragione, perché lei è classe 54, giusto? Io vedo che la mia biografia ormai è un fatto pubblico, sì. Sì, no, e quindi ha potuto vedere come l'evoluzione, soprattutto derivante dai mass media, hanno dato un carattere notevole al modo di atteggiarsi dei diciottenni di ora, perché magari, come ha giustamente detto lei, da un punto di vista mediatico... L'ho fatto in pieni anni di piombo, pensi nel 72, che era tirata, c'era l'austerity, pensi che voglia di fare 18 anni. Poi ci vergognavamo, queste cose... Cioè la famiglia non esisteva, era qualcosa che non si nominava nemmeno. Sì, guardi, io condivido il suo stesso stato sociale che ha vissuto, perché in effetti il 18esimo anno che ho festeggiato io è stato molto semplice. La cosa bella, si prendeva la patente, non vedevamo l'ora, facevamo il foglio rosa e finalmente guidavamo la 500. Ecco, questa era la botta di vita massima. Io ricordo all'epoca c'erano gli start-up, no? I telefonini che costavano 1.000.000 delle vecchie lire, no? Invece adesso vedo come regalo, infatti mio nipote ha ricevuto il tablet, l'iPhone, e quindi il costo è notevole. E mi chiedo, cioè, quando all'epoca non c'era la crisi, perché nel fine 98, insomma, non c'era la crisi che c'è adesso. No, erano begli anni, si stava bene. Io tanto contento. Invece adesso che c'è crisi, io mi chiedo, come hanno il coraggio di festeggiare nella maniera quasi che fosse un compleanno, di chiamare un'agenzia dell'animazione, magari come se fosse il matrimonio, ecco, come se fosse un evento. E noi lo chiediamo a Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Esattamente qual è la sua professione? Io mi occupo di diciottesimi da un punto di vista proprio strettamente legato alla festa, tutto quello che è il diciottesimo anno, e noi ci chiamiamo 18 planner, un po' una declinazione del party planner completamente dedicata. Diciamo, è una nuova branca dell'organizzatore, l'18 planner, non esisteva fino a qualche anno fa. Quindi, Italia, no. Quindi concorda con me che sta cambiando qualcosa nelle ritualità familiari? Sicuramente da una parte sta cambiando e da un'altra c'è un grande ritorno, perché voi avete detto giustamente che l'evoluzione porta allo sfarzo, però in realtà c'è una tradizione che lega al debutto in società, che un po' è quello che succede a 15, a 16, a 18 anni, insomma, nei vari paesi, che è una cosa insita da tantissime tradizioni e culture, quindi insomma non è proprio così una novità. Senta Francesco, noi abbiamo parlato col suo collega di Catania, a Catania fanno il prediciottesimo, il filmato trescissimo, però divertente, con le sbombarde che saltano, con i ragazzi che fanno le ballerine, che sembra la sequenza di fantasia degli ippopotami che ballano. Ma è fantastico, però mica voglio penalizzare le ragazze in carne, anzi, però ognuno deve avere il senso del ridicolo se si espone. A Milano invece la cosa è diversa totalmente, si va da 18 planner e si chiede una festa come? Allora, innanzitutto si chiede una festa personalizzata, cioè che segue le attitudini del festeggiato, della festeggiata, che possono spaziare... Se non fa un piffero dalla mattina alla sera come l'80% dei 17enni, cosa fa? Ma sicuramente dalla mattina alla sera ci sarà qualcosa, cioè, che cattura l'attenzione, come può essere dal semplicissimo un colore, la fissa per il colore, la fissa per un braccialetto, cioè qualunque cosa che è ricorrente nella vita di questo ragazzo sarà declinata a tal punto da diventare la festa del proprio 18° compleanno in modo, diciamo così, aspirazionale, desiderato. Ma in realtà io però voglio intervenire subito sul discorso del prediciottesimo, nel senso che noi come My Sweet 18, cioè, non parliamo di prediciottesimo, ma parliamo di un evento che dura tutto un anno, e non raccontiamo in realtà questo aspetto, come avete definito, trash, che porta poi alla maggiore età, cioè nel senso che per noi... Vabbè, voi state a Milano, avete un'altra visione, chiaro, le modelle, la moda, un'altra città... Ognuno, non so se dipende solo da quello, diciamo che forse ci teniamo di più al fatto che a 18 anni cambia qualcosa, cambia, come giustamente avete detto, la patente, cambia che c'è un'esigenza diversa magari dall'andare fuori, dall'uscire fuori di casa, a guardare il mondo che non... Quindi è... Quindi lei prende, diciamo, prende in carico il ragazzo e la ragazza un anno prima e comincia a avviarlo verso questo passaggio importantissimo. Diciamo che noi ci avviciniamo ai ragazzi magari tramite le scuole, tutti quelli che sono gli avvenimenti che vengono prima di 18 anni. Poi quando arrivano a 18 anni, a circa 2-3 mesi, diciamo così... Come fanno le parrocchie per la cresima? È una lunga preparazione per un passaggio importante, diciamo, laicamente. Più che una lunga preparazione, è un lungo divertimento che dura tanto, perché poi la vita comincia a essere un po' più complicata. Ecco. Senta, quale classe sociale può permettersi comunque una festa che dura un anno, cioè un anno di training per arrivare a 18 anni, più o meno? Quanto costa questo giochino? Ma è un giochino che può costare da zero all'infinito, nel senso che noi la soddisfazione che possiamo dare anche con un semplicissimo aperitivo organizzato, essendo dedicato, può costare 200 euro, come può costare 10.000 euro, anche perché, cioè, ripeto, è qualcosa che varia totalmente a seconda della richiesta. Non c'è un ticket da pagare all'ingresso dove sostanzialmente per avere una serie di benefit devi pagare 15.000 euro, altrimenti sei tagliato fuori dal mercato del 18° compleanno. Cioè, quindi... personalizzata a seconda dell'esigenza, della capacità e del potere d'acquisto. Ecco, importante che il risultato ci sia. E l'apoteosi, a cosa si arriva dopo questo, diciamo, lunga preparazione fatta di sollecitazioni legate ai punti comuni? Cosa succede poi il giorno che della grande festa? Qual è, diciamo, il momento di clou del passaggio? Come lo rappresentate? Allora, sicuramente il giorno della festa è un giorno in cui noi facciamo vivere molto da vicino i propri amici, cioè quindi ci sono delle esperienze ludiche piuttosto che per le ragazze. Allora, fermo un attimo, Francesco, siccome devo dare la linea alle informazioni della borsa, ci tenga in sospeso cosa accade il giorno dei momenti ludici, perché fra un minuto poi ce lo racconto. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024. Vedo che ho colto nel segno, e questo mi fa piacere, il grande problema delle famiglie italiane da affrontare, oltre la rata dell'IMU, ci sarà o non ci sarà, è anche quella quando ci sono figli che compiono 18 anni. Come si fa a sottrarsi quando tutti i compagni di scuola fanno la mega festa, fanno il filmato, fanno la vacanza? Caro Nicoletti, questa festa mi pare il climax delle festicciole che cominciano all'asilo, nido costellate già a quel momento la vita, da affitti di sale, oratori, piscine. È vero, sì, le orrende festicciole fucsia che iniziano per le bambine, sì, dalle prime classi della scuola materna, fatte di animatori, di pagliacci, di vestitini e di mamme tutte felici, in realtà hanno il loro climax nel prediciottesimo. Alessandra. Ciao, buongiorno, sì. Grazie. Io sono la mamma di tutti i figli maschi. Vicini ai 18 anni? No, ancora no. E allora? No. Quanto anni suo figlio? Il più grande è 14. Vabbè, fra 4 anni sarà ricambiato, sì, completamente. No, ma non pensavo a lui, pensavo veramente a me. Mm. Io ce n'ho 43. Quando ho compiuto 18 anni, che poi la nostra generazione aveva delle differenze, però in tante cose i nostri figli ancora per fortuna ci assomigliano, se non altro perché sono i nostri figli. Allora io mi ricordo con la mia compagna di banco, quella mattina, che perché compivamo gli anni una un giorno e una il giorno dopo, siamo andate a dare il sangue, e questa ci sembrava una cosa assolutamente, cioè, capito? Una cosa che intanto avevamo scelto noi. Il fatto di dire io divento grande, no? Io quello che dico a loro, ragazzi... Cioè avete fatto questo gesto ammirevole di dare il sangue... Ci sembra una cosa da grandi e ripensandoci dopo... Perché da prima grandi, non si può dare, è vero, è una delle cose che non si può dare. Che siamo state, no? Come siamo state alternative e... cioè, di dire ai nostri... Noi dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri figli, ragazzi, 18 anni vuol dire diventi grande, eccetera, vuol dire intanto che qualsiasi minchiata tu faccia ne paghi le conseguenze. Cioè, questo lo dico a mio figlio tutti i giorni, cerca di star poco contento, che poi sono fatti tuoi, non c'è più il papà, e ci vai tu in galera. E poi di goderla nel profondo, cioè io dico, magari vorrei regalare a mio figlio, magari un bel viaggio, no? Lui potrà interiorizzare qualcosa, potrà rimanere nel profondo, vivere qualcosa di grande, no? Di da solo. Non so, io dovessi poter spendere 2-3 mila euro e dirgli ti faccio un bel regalo, vorrei poter concordare con lui qualcosa di meglio, qualcosa di diverso, cioè non, in nessuno... Io fossi ricco lo manderei via di casa, onestamente, sarebbe per me la cosa migliore, però... Però, voglio dire, noi siamo ancora liberi, siamo ancora liberi, siamo di solito... Quando la sento siamo molto euforica stamattina, molto euforica, Alessandra. Lo sai che c'è, che quando ci sono pochi soldi in tasca, di solito l'acume si ingegna di più. A me pare che invece diventiamo tutti più scemi e più omologati per paura di farci vedere. Lei ha colto un segno. Questo fenomeno che è esploso, di matrice latinoamericana, non molto legata alle nostre tradizioni, la mega festa per i ragazzi, vedrà che arrivando anche 15 anni arriveranno anche da noi, è roba di momenti, passano magari attraverso alcuni serial televisivi, alcune fiction, alcune soap dedicate ai ragazzi, agli adolescenti, proprio di matrice latinoamericana, verrà anche da noi anche la festa dei 15 anni, ma quella di 18 anni, così sfarzosa, così pensata, così immaginata, in realtà viene proprio in un momento di crisi, in cui c'è bisogno di creare dei modelli, secondo me, di sicurezza, di compattezza, di partecipazione, non essendoci più sul piano della politica, della socialità, delle scelte impegnate, quindi tutti uguali almeno nella festa dei 18 anni. Maria? Pronto? Sì. Buongiorno. Per le botte d'allegria, cosa ha fatto lei a 18 anni? Niente. Pronto? Veramente niente. Ascolti, mi fa spegnere la radio? Sì, dovrebbe, perché sennò intanto io riempo lo spazio vuoto mentre lei va a spegnere la radio, spero sia in una stanza vicina, perché sennò dovrei cominciare a raccontare. Ecco, ha fatto la spenta, perfetto. Sì. Adesso? No, io niente, però ricordo che avevo, io ho 52 anni, quindi... insomma, erano il 78, quando diventavamo maggiorenni, e avevo delle amiche, delle cugine, delle compagne, che comunque poche, ma che questa festa l'hanno fatta già allora. Non è che a quei tempi non esisteva. Sì, non esisteva un modello omologato di festa col filmino, con l'organizzazione. No. Si faceva una festa in famiglia, chi stava meglio la faceva nella seconda casa. Ma anche in discoteca. Beh, lei cosa ha fatto, Maria? Ma nulla, proprio quelle cose depresse che uno sta a casa e guarda il muro. Ma guardi, non lo so, non me lo ricordo nemmeno. E sua figlia, lei ha dei figli, sua figlia cosa gli ha fatto? Ecco, invece mia figlia ha 20 anni. Quando ha compiuto 18 anni, che lei li compie il 31 dicembre, tra l'altro, è andata a fare un viaggio a Praga con dei compagni. E tra la attività... stagione giusta per andare a Praga, proprio. No, però sono 40 gradi sotto zero. Avevano un'offerta, quindi loro, insomma, in base ai soldi che avevano in tasca, hanno dovuto... Sono andati il 31 dicembre, Natale, Capodanno a Praga. Esatto, e era aperto, perché ovviamente ci saranno anche gli stati dei giorni di apertura, un campo di sterminio. E il 31 dicembre dovevano fare quello, perché era programmato di fare... Vabbè, ha un senso civile, nel senso di passare la maggiore età e rendersi conto delle fasi più abiette dell'umanità. Ma non lo so se è così nobile è stata la loro idea. È che il caso ha voluto così, che era aperto quel giorno era il giorno del suo compleanno, quindi erano i suoi 18 anni... Non sappiamo che fare, andiamo a dare una visita a tal'altro. E lei li ha passati. Io ci sono rimasta un po' male a fronte di certi suoi compagni che hanno fatto mega feste con le limousine. Ma però se sua figlia era contenta, è un'esperienza forte, cioè chi visita un campo di sterminio sa che è un'uscita dal mondo molto violenta, tutto ciò che uno si è sentito raccontare, ha visto nei film, respirarlo e vedere un luogo che è rimasto intriso comunque di una sofferenza umana indicibile è un'esperienza che secondo me va fatta, e quindi sua figlia ha fatto questa esperienza, lo trovo molto, molto interessante. Però torno a Francesco perché l'ho interrotto e l'ho fatto stare fino adesso in ascolto. Francesco, torniamo all'organizzazione milanese La Mega Festa, così abbiamo i due estremi, la ragazza che sceglie di andare il 31 dicembre in un posto freddissimo e va a visitare il lager, invece l'apoteosi della festa, perché uno non deve dare una scala di valore, meglio questo e meglio quello. È anche lecito dire che quel giorno deve essere un giorno di festa esplosiva. Voi affittate anche elicotteri per fare i 18 anni? Assolutamente, noi il brindisi lo possiamo fare tra le stelle per rendere ancora più importante questo momento. Cosa si carica tutta la compagnia su un elicottero? Cos'è, un Chinook da ospedale da campo? Cosa c'avete? No, normalmente c'è sempre l'amichetto o l'amichetta del cuore da portare con sé piuttosto che la mamma. Ah, in due, ma solo in due si va. Ma su un elicottero diciamo che ne ospitiamo in quattro, non oltre. Però ci sono altre possibilità, insomma, un attimino, non solo più. È un'alcova volante. Esattamente. È l'uccello della felicità che li porta fra le stelle. Esatto, li avviciniamo a quello che potrebbe essere un desiderio da realizzare sostanzialmente. Ma comunque in ogni caso tutte queste esperienze raccontate sono giustissime, perché appunto ognuno poi deve vivere quel momento come piuttosto vuole. L'unica cosa è che è un momento da condividere, non è solo un momento per apparire, quindi si condivide con la foto di famiglia, si condivide con un momento di make-up piuttosto che con lo stylist per vestirsi e fare le foto, per scimmiottare loro stessi quel momento. Cioè, tutto cioè farsi belli in maniera esagerata, perché è giusto che si entri, se si deve rappresentare qualcosa va fatto bene, non va fatto. Io sono convinto che le cose a metà sono le peggiori, allora è meglio fare niente, se si fa ma va fatto bene. Anche perché ci si sente già unici, cioè nel senso non c'è il modello della velina, cioè è già qualcosa di più. Nel momento in cui io decido di festeggiare alla grande, decido di festeggiare perché già io mi sento qualcuno. Beh, mi dica la cosa più pazza che le è capitato di fare. Ma la cosa più pazza piuttosto è una richiesta. Ci è stato chiesto una notte con Justin Bieber in una suite di un albergo milanese. A questo diciamo che ci stiamo ancora lavorando perché abbiamo qualche mese. Questa forse è una richiesta esagerata più che pazza. Un'altra pazza la potremmo definire una notte brava a Las Vegas sulla falsa riga del film, ma piuttosto diciamo poco fantasiosa, quindi noi l'abbiamo declinata in modo diverso. Ma assieme al diciottenne chi ci andrebbe in questo caso? Tutto, zie e nonne o solo lui con la fidanzata o il fidanzato, secondo? In quel di Milano il diciottesimo viene vissuto di più con gli amici. La famiglia di base sta a guardare, poi magari si guarderà il film della festa, dove la maggior parte delle volte noi li facciamo sfidare perché i ragazzi che poi festeggiano con noi si conoscono e quindi il montato della festa invece di essere solo un racconto diventa un game, e quindi i genitori a quel punto partecipano per dire: mio figlio l'ha fatta più divertente, mio figlio l'ha fatta più elegante. Ma quindi c'è una gara fra genitori di fronte ai video delle feste? Diciamo che c'è una gara intestina tra i genitori che magari vogliono in qualche modo apparire più dei figli. Lì magari c'è dell'apparenza. Oppure semplicemente dei genitori a chi dice: guarda, io ho reso mio figlio più felice perché gli ho dato quello che sta cercando. Insomma, in realtà forse sono più vittime da questo punto di vista i ragazzi che festeggiano, perché quello che le posso dire, monitorando un po' più da vicino questo target, è che dal loro punto di vista il diciottesimo anno sta diventando qualcosa che gli mette l'ansia. Quindi festeggiare gli serve più a distendere e ad allontanarsi un po' da tutte queste preoccupazioni di dover essere, di dover sembrare grandi in tutti i punti di vista, anche quelli diciamo un po' più così futili o superficiali. Certo, poi ragazzi, già gli viene l'ansia la prestazione per fare il compleanno dei 18 anni. Pensiamo un po' quando dovranno affrontare la vita, dovranno lavorare. Ma infatti avranno dei problemi grossi, però poverini, è giusto che ci arrivino tranquillamente. La ringrazio, Francesco. Melog, la realtà condivisa. Stiamo investigando il mondo oscuro e affascinante delle feste di 18 anni, dal videoclip fanta televisivo al volo a due in elicottero sopra Milano di notte a probabilmente una vacanza a Las Vegas nel perfetto stile Boldi De Sica, per chi vuole anche avere come modello di vita futura questo tipo di immaginario. Aldo, buongiorno. Sì, spenga, buongiorno. Spenga la radio. Nicoletti, buongiorno. Sì, spenga la radio. Sì, io spendo Nicoletti. Buongiorno. Buongiorno. Ma dove siamo arrivati, dico io? Che mondo. Io ho fatto 18 anni sul posto di lavoro. Era fortunato avere il lavoro a 18 anni. Alle 7 di mattina andai a prendere delle paste con della birra, la portai sul posto di lavoro, alle 10 avevamo pausa. Che lavoro faceva a 18 anni? Lavoravo in una vetreria, dalle 8 di... Vetreria. Ah, vetreria, il vetraio. Erano i tempi dove uscirono i vetri camera, no? Ah, i primi vetri camera, cioè. Era il boom di quei vetri. Attaccavamo la mattina alle 7:30, alle 8, fino alla sera alle 8, alle 9, ecco i miei 18 anni. Beh, avete fatto bei soldini però. Sì, sì, per carità. Il giorno del mio compleanno avevo la rata che mi scadeva della cara Vespa, 108.000 lire, e ne prendevo 2,20. Che Vespa era, il Vespone o la Primavera? Il Vespone, rosso con i gommoni neri, 108.000 lire di cambiale, l'11 aprile del giorno del compleanno mio. Vabbè, se riusciva a pagare la cambiale, l'onorava, una bella... Quindi lei è andato a comprare pasta e birra, accostamento bislacco però, pasta alla crema e birra, e tra i suoi compagni di lavoro... Beh, ho detto birra, poi aranciata, Coca-Cola, quello che era, non mi ricordo. Ah, vabbè, comunque. E a portare loro, stanno lì tagliando il vetro, fra schegge di vetro e cannoli alla crema avete festeggiato i 18 anni. Esatto, ecco i tempi come sono cambiati. Pensi un po', vedi. C'ho il figlio della compagna mia, già da 5 mesi fa gli ha detto: mamma, ma ti stai preoccupando, stai pensando al mio 18° anno? Che sarebbe il suo figliastro, ecco, diciamo così, è il figlio della sua compagna. Diciamola così. E non è tutto. E lei dirà la sua, diciamo, in questa famiglia acquisita, dirà: stattene buono, io ai tuoi tempi mangiavo i cannoli e pagavo le rate della Vespa, oppure... Sì, mi hanno risposto: tu sei antico e non ho chiesto io di venire al mondo, quindi pensateci voi. E quindi adesso cosa farà questo ragazzo? Niente, va a scuola... No, basta, ma cosa beh, tanto lei dovrà contribuire, quindi dovrà mettere mano al portafogli, perché... No, la mia figura. Compagna sta a casa sua, io sto a casa mia, quindi... Ah, quindi anche un marito la sua compagna? No. Siamo separati tutti e due, lei sta a casa, io sto a casa, quindi ognuno si para le sue... E quindi poi le verrà posto emotivamente, se ne farà carico, quando la sua compagna dirà: guarda, devo fare la festa di 18 anni al ragazzo, aiutami. Ma no, problemi suoi, già da tempo sta mettendo i soldi da parte mese per mese. Ah, sta raccogliendo i soldini. E qual è il budget che si è prefissata? Quanto vorrà spendere? Ma un 1.500, 2.000, da quello che ho capito io, comunque. 2.000 euro, e cosa vorrà fare per questo rampollo? Ah, lui organizza il fare, lei organizza il pagare. E cosa vogliono fare? No, per capire, perché questa... No, non ho idea, penso che hanno prenotato qualche locale, fanno feste e festicciole. E comunque lei, scavando, mi ha portato la situazione media rispetto agli eccessi di cui abbiamo parlato. Una famiglia media, monoreddito come la signora separata, sua compagna, deve comunque mettere soldi da parte, perché quello è un investimento. Come una volta deve essere sposato un figlio, oggi deve essere diciottennizzato un figlio. Irene, buongiorno. Buongiorno. Allora, Irene è responsabile del sito www.feste18anniroma.it. Vediamo, siamo arrivati all'Italia centrale, visto che vediamo in tutte le nostre latitudini. Sì. Quali sono le offerte che voi fate alla famiglia media romana per la festa di 18 anni? Ma abbiamo diverse soluzioni, dalla classica sala allestita con divanetti, tavoli, sedie, il DJ, l'impianto audio, l'impianto luce, insomma... È la base, sì. Fino invece a proporre a chi vuole fare una festa di 18 anni più particolare, a proporre il Fashion Bus. Non so se ne hanno già parlato, no, è lei. Ma è il primo ed unico locale itinerante su Roma, è un autobus lungo 18 metri... È un autobus inglese, quello. Lì rossi. No, è un autobus, ora non so chi è di Roma, se che io sono di Roma. Ok, se è il serpentone, il vecchio serpentone che gira per Roma. Ah. Quello lì è stato completamente rimodernato all'interno, ci sono tavoli, sedute, divanetti, un bancone del bar. Ma il Trenta Express, quello lì? Sì, perfetto. Passa sotto casa mia e trema tutto il palazzo quando passa, lo so bene, purtroppo. Ci sta creando dei problemi strutturali. Il 30 no, però insomma, ecco, è la novità. Quindi vi affittate il 30 con no, tutti no, gli... non è il 30, cioè, è un autobus che è stato l'abbiamo comprato, dentro è stato rimodernato, dentro una vera e propria discoteca, quindi dentro c'è il bagno addirittura, quindi c'è il bagno, c'è un bancone del bar, c'è un impianto audio, un impianto luci. E gira per Roma di notte? E gira per Roma di notte, di giorno, insomma, a seconda dell'orario richiesto poi dal cliente. E quanta gente c'è a bordo? Fino a un massimo di 41 persone. È stato... una grande festa. Quanto dura il giro? Ma 3 ore e mezza, 4, poi sappiamo tutti il traffico di Roma, sappiamo quando entriamo per esempio sul Lungotevere. Lo faranno di notte, mica saranno matti, giurare il mercoledì per Roma la mattina. Sì, no, quello ovviamente no. Cioè, sta fermi, diciamo, si fermano lì, facciamo... si fermano sul Lungotevere e finisce la festa. Sì, no, diciamo che noi facciamo tutti i tipi di feste a bordo di questo autobus. Ovviamente nel caso particolare di 18 anni abbiamo due fasce di orario, dalle 20 alle 23, e con la cena a bordo, ovviamente, che lì la cena può essere personalizzata dal semplice tramezzini, panini, pizzette, fino a un menù vero e proprio servito. Poi ho visto Villa Roma, Terrazza Roma, Piscina Roma, Barcone sul Tevere. Sì, noi cerchiamo di soddisfare un pochino tutte le esigenze. Ma barcone sul Tevere nostri... funziona? Non ho capito. Il barcone sul Tevere va come festa? Ma va, sì, magari non proprio tantissimi diciottenni. Ma ragazzi, qualcuno... è il Pantegana Party, il barcone sul Tevere. No, comunque sia sono rialzati, non sono proprio sul Tevere. Vengono delle belle feste, per esempio domani sera ne abbiamo una all'altezza di Ponte Milvio, e cioè, lì c'è un barcone, oppure questa sera proprio abbiamo una festa sul battello che parte da Ostia Antica e va arriva fino al Lungotevere di... sì, scusate, fino al lungomare di Ostia, fa un tour di circa 4 ore e torna poi di nuovo all'attracco, e lì a bordo c'è sempre il DJ che mette la musica. Poi noi cerchiamo di puntare molto sulla qualità in quanto del cibo, in quanto abbiamo anche un ristorante all'Eur, ma anche sul divertimento. Quindi... Ma quanto viene a costare la famiglia media romana che fa i sacrifici? Quanto costa il giochino dei 18 anni? Vediamo un po', facciamo una media, così diamo l'idea sul territorio nazionale. Noi abbiamo delle offerte che partono dalle 790 euro fino a XXX euro a seconda, insomma, dei servizi che vengono richiesti. Diciamo, con un migliaio di euro quanta gente si mette a tavola e in giro per strada, ecco. Facciamo sui 1500-1600. È meglio, va. Quanti invitati? Ma una quarantina, oramai i compleanni abbiamo visto qui sul territorio romano che non superano i 40 invitati. Quindi la media è questa, diciamo, la media di spesa sono 1500 sì, euro per una notte. Più o meno, sì. Poi ovviamente c'è la famiglia che non può permettersi, mettiamo caso, il fotografo professionista, e quindi si accontenta di un servizio fotografico base, e quindi magari possono essere scalati 100 euro. Senta, a Roma, invece... a Roma usa il filmatino per i 18 anni? Sì, ieri sera, se non mi sbaglio, sì, ieri sera abbiamo avuto una festa di 18 anni dove la festeggiata ha voluto che fosse presente l'operatore che riprendesse i momenti più belli della sua serata, e adesso in un paio di giorni gli verrà montato tutto il girato e gli verrà consegnato. E lo mette su YouTube. No, sì, ma c'ho il filmato con la storia del festeggiato, quando era bambino, con i genitori. Sì, ci sono anche quelli che lo fanno, magari è una sorpresa che fa o il papà o la mamma. Sorpresa, ormai lo sanno tutti, insomma, che c'è. Sì, ormai diciamo che quella è diventata una cosa un pochino scontata, ecco, la particolarità adesso sta proprio... Io sto ricattando mio figlio, se mi chiede una cosa del genere metto in giro le foto di lui quando era piccolo, gli cambiavano il pannolino, e di fronte ma a questo... Ma diciamo che adesso il filmino di tutta desisterà la storia è un pochino festa. Passato, veniva fatto qualche anno fa, adesso insomma non va più tanto di moda, adesso ecco, si cerca più la location particolare e più la location privata, all'inizio si festeggiava in discoteca, dove poi a una certa ora entravano anche altre persone. A noi ci piace rendere invece la festa proprio unica, esclusiva, ci sono loro e basta, insomma, non ci sono altre persone che possono, come si dice a Roma, imbucare alla festa. Sentiamo, ecco. Sandro, buongiorno. Salve, buongiorno. Sì. Io volevo raccontare la mia esperienza anche riguardo al fatto che trovo anche abbastanza strano che un genitore si trovi in obbligo. Ma lei ha figli? Io no, non ho figli. Allora come fa a sapere? non sa cos'è. Il sottile ricatto morale spalleggiato da parte della famiglia che ti prende lancinante, ti entra nelle ossa, ti logora i nervi, giorno, notte, mattina, per mesi, settimana, alla fine uno cede. Questo è il vero senso, Sandro. Mi dispiace, ma queste sono cose che bisogna passarci in mezzo. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Chiappini, grazie alle deliziose ospiti che questa mattina hanno allietato la nostra mattinata.